Allora, buonasera a tutte e tutti e benvenuti alla seconda serata invernale di Resistenze in Cirenaica. Questa sera la dimensione è tutta postcoloniale. Adesso presenteremo il libro Roma Negata di Ijaba Shego e Rino Bianchi, poi ci sarà la cena di autofinanziamento, dopodiché ci sarà il reading di un racconto dello scrittore libico Ali Mustafa al-Misrati, che si intitola Un chiodo per Mussolini, che verrà letto da me, Minguno, accompagnato da Guglielmo Pagnozzi e Butan Clan all'improvvisazione musicale, e poi ci sarà la Compagnia Fantasma, che ha uno spettacolo nuovo che si chiama Carmine Iorio Beduino Salernitano ed è la storia di un italiano che durante la guerra di Libia disertò e passò dall'altra parte con i ribelli della Cirenaica. Allora qui abbiamo Ijaba Shego, a cui diamo il benvenuto. Ijaba Shego, in realtà il suo ultimo libro è un romanzo, Adwa, che è uscito per Giunti di recente, pochi mesi fa, ma è qui questa sera, accolto il nostro invito, a presentare un altro libro che è uscito nel 2014, ma ci è parso importante venirlo a presentare qui perché è molto consonante col lavoro che stiamo facendo in questo rione, in questo quartiere da un anno a questa parte. Il libro è un libro di non fiction, si chiama Roma Negata. Negata perché? Perché sono le memorie del colonialismo italiano che sono negate ai romani e agli italiani, sono delle parti neglette della città, sono monumenti, nomi di vie, nomi di piazze o vuoti lasciati, come nel caso della Stele di Aksum, dei vuoti lasciati dai monumenti che c'erano e che poi sono stati portati via. Ijaba interroga questi vuoti e questi pieni. E anche lei fa un lavoro molto simile a quello fatto qui. Noi siamo partiti da una constatazione: il rione si chiama Cirenaica, ma molti bolognesi, anche molti che vivono qui, non lo sanno perché. Vedono appunto che c'è un nome di una via con un nome e cognome che è di un partigiano, è scritto già via, e poi c'è via Tripoli, via Bengasi, via Derna, e non sanno perché. Quindi siamo partiti dalla doppia toponomastica come occasione narrativa ed abbiamo messo in piedi questo progetto, questo cantiere culturale sul rimosso coloniale, sulla negazione della memoria e anche sulle resistenze, perché cerchiamo sempre di tenere questo doppio sguardo proprio partendo dai doppi nomi delle vie: la resistenza italiana al nazifascismo e le resistenze al fascismo fuori dall'Italia e al colonialismo italiano. In questo viaggio per la Roma Negata, Ijaba è stata accompagnata in dialogo continuo da un fotografo, Rino Bianchi, e anche qui si tratta di accostamenti che sono stati creati e uno è mancato, perché nell'ultimo capitolo Ijaba racconta che un accostamento non si è potuto fare. Dopo racconterà lei che cosa, l'effetto straniante che volevano ottenere. In ogni caso si tratta di portare nei luoghi intitolati al colonialismo italiano a Roma, nei luoghi di questa Roma negata, perché nessuno vuole più ricordare il colonialismo italiano, dei migranti provenienti dalle ex colonie, soprattutto dal Corno d'Africa, e fotografarli, perché questa memoria che viene negata è negata a noi, è negata a loro, è una memoria comune, e le persone che vengono tolte dal quadro sono loro principalmente. Qui ad esempio abbiamo un esempio di una migrante somala sul ponte Amedeo d'Aosta, di fronte a una lapide che glorifica il duca d'Aosta, viceré d'Etiopia e tutto quanto, appunto il grande sforzo contro il nemico, e l'accostamento chiaramente è straniante, è rivelatore, ha una valenza anche politica, a mio avviso, molto forte. Il libro ha scelto diversi posti di Roma, a partire da Piazza dei 500 di fronte a Roma Termini, che molti ignorano chi erano questi 500 a cui è intitolata la piazza, e da lì si parte in questo viaggio che, come dicevo prima, è molto utile anche a noi per il percorso, i trekking urbani, le performance, la guerriglia toponomastica e odonomastica che stiamo facendo in questo rione. Lascio la parola a Ijaba perché ci racconti come è nato questo progetto e poi anche Giovanni interverrà, farà domande, interventi, puntualizzazioni e cose così. Grazie. Grazie mille, grazie dell'invito, perché comunque questo posto è magnifico e soprattutto questo quartiere è molto interessante. In un certo senso sono molto felice di poter fare questo dialogo proprio su Roma Negata qui, perché ha molto senso. Allora vi spiego perché io ho insieme a Rino abbiamo pensato, a Rino Bianchi, abbiamo pensato a questo libro, perché ogni tanto a Roma uno si imbatte in fasci vittori, in pezzi di storia che non ci vengono narrati, tra parentesi c'è un grandissimo e lunghissimo obelisco con la scritta Mussolini Dux al Foro Italico, per non parlare dei mosaici con le carrette degli squadristi, la scritta me ne frego, no, sempre a Foro Italico. Io ho sempre pensato a tutti i ragazzi che vanno allo stadio a vedere la Roma, la Lazio, e che comunque assorbono questo fascismo e nessuno li racconta che cos'è stato, o li raccontano appunto l'aneddotica, o peggio li raccontano però il fascismo è stata una cosa buona, poi è arrivato Hitler e gli ha fatto il lavaggio del cervello a Mussolini, no, questa è la vulgata purtroppo che ancora esiste ed è molto forte. Inoltre la mia città, io sono nata a Roma da genitori somali, è una città in cui il fascismo è presente non soltanto nelle vestigia purtroppo, ma anche in alcune menti, in alcuni cuori. Cioè è una città dove comunque i fasci vittori non sono soltanto quelli dei tombini. Vicino a casa mia c'è un tombino con un fascio vittorio molto, molto grande, perché nelle fogne si può fare, però è disegnato. Io mi ricordo di una scritta a Piazza Bologna che mi ha lasciato molto perplessa tempo fa, dove c'era il governo Prodi e quindi c'era scritto Prodi somalo, e il somalo e con una croce celtica, quindi il somalo era considerato un insulto. E lì ho detto, vabbè, c'è qualcosa che non va, non è proprio nella trasmissione storica, dobbiamo fare qualcosa. Anche perché io come appunto storia personale, appunto i somali sono legati all'Italia, ora non più, cioè però un tempo sono stati legati all'Italia proprio per questa storia coloniale, che è stato tanto male, ma che ha anche lasciato, no, delle relazioni, no? Questo è in dubbio. E quindi io sono sempre stata immersa in questa anche aneddotica familiare in cui, ne so, il nonno era interprete di un gerarca fascista, era Rodolfo Graziani, in cui mio padre, che oggi ha 91 anni, insomma, quando andava a scuola, lo hanno fatto arrivare solo alla quarta elementare e gli hanno anche regalato una medaglia d'oro, e lui mi diceva appunto, io ho studiato tutte quelle canzoni, non so, Giovinezza, quella del Balilla, e ogni tanto quando ero piccola me le cantava come Nina Nanna, e poi io quando ho capito dicevo, no, papà, non va, non puoi cantarmi proprio questa, e lui diceva, lo so, sono canzoni fasciste, però sai, è la mia giovinezza, era la mia infanzia. E questo mi ha molto colpito, perché mio padre dice una cosa che ho sentito dire da tantissimi italiani, no? E quindi lì ho pensato che c'era bisogno di uno scavo storico. Ho cominciato a scriverne prima un po' timidamente e poi ultimamente di più, no? Su questo colonialismo italiano che sembra, che appunto è sempre poco conosciuto, e conosciuto in parte perché appunto lo leghiamo solo al fascismo, quando in realtà è qualcosa che ha accompagnato il processo proprio storico dell'unificazione italiana, cioè subito dopo l'unificazione quasi quasi si è fatto il colonialismo, quindi si è andato a usurpare le terre altrui, e quindi è qualcosa che ha accompagnato l'immaginario di questo paese, la rappresentazione, che ha delle conseguenze su quello che poi uno pensa oggi dei migranti, perché molti stereotipi non sono stati, come dice Paola Tabet in un bellissimo libro La pelle giusta, non sono stati discussi, quindi sono come un motore in folle che può partire da un momento all'altro, no? E quindi il razzismo e il fascismo stanno lì. Quindi è importante, secondo me, indagare. E quindi ho cominciato insieme a Rino a vedere la città, a guardarla con altri occhi, anche perché Roma è una città storica, è una città che è una torta nuziale, perché appunto la storia è strati, cioè appunto l'impero romano, quello ancora cose prima dell'impero romano, poi dopo l'impero romano, che ne so, la Roma barocca, la Roma rinascimentale, c'è la Roma medievale, che è molto bella, e c'è anche la Roma fascista e la Roma che ha dei legami col colonialismo italiano. Non è che c'è tantissima roba, ma sono parti significative della città, perché appunto questi monumenti o queste vie sono nell'oblio, nessuno appunto sa, c'è tanta gente a Roma che vive a via Chismaio o appunto a via l'Eritrea e non lega quei nomi al passato coloniale. Sì, cioè, ma proprio a me Chismaio mi ha proprio colpito tanto sempre, però sì, via le Libia, no? E a via le Libia appunto ci sono i negozi, la gente va a fare shopping, quindi l'idea, no, di unire quel nome ha una storia, per me era importante. Chiaramente ho cominciato insieme a Rino a monitorare la città e abbiamo iniziato da un luogo simbolo dove c'era appunto la stele di Aksum che Mussolini aveva appunto portato in Italia, aveva fatto portare in Italia perché aveva questa fissa Mussolini, voleva essere un po' come il nuovo Augusto. Quindi Augusto, ma in generale gli antichi romani, prendevano gli obelischi dall'Egitto, Roma è piena di obelischi, forse la città con più obelischi, e Mussolini si è voluto fare un suo obelisco, e non è un caso che lì vicino a dove c'era la stella di Aksum ci doveva essere anche il Ministero delle Colonie, che oggi è il Palazzo della FAO. Quindi è un luogo molto significativo, poi magari vi racconto qualcosa in più della stele di Aksum, però oggi cosa c'è lì? Cioè la stele è stata ridata dopo tutte azioni rocambolesche all'Etiopia, è stata restituita dopo 40 anni di ritardo, però lì oggi nella piazza, non esattamente dove stava la stele, ma nella piazza, piazza di Porta Capena, ci sono due colonnine. Io per un sacco di mesi li guardavo dall'autobus e non capivo, dicevo, ma che sono? Perché sono apparse dal punto di Ponte in Bianco. E un giorno ho fatto la circumnavigazione, insieme a Rino, ho fatto la circumnavigazione della piazza e abbiamo scoperto che c'è questa lapide. Allora, in ricordo delle vittime della strage di New York e Washington dell'11 settembre 2001, la città di Roma per la pace contro ogni forma di terrorismo. E poi c'era anche una frase che era di Santayana, e appunto c'era la frase, adesso non la ritrovo, però appunto che diceva che chi fa qualcosa, che se uno rischia appunto di ripetere la storia se non la studia, no? Ed era abbastanza tutto paradossale, perché lì non si era ricordate le torri gemelle, quindi tutta una cosa che non appartiene a quell'uomo, ma non appartiene a noi come ricordo. Forse dovevamo fare un monumento per le torri gemelle, ma da un'altra parte, non in un posto in cui c'è tanta densità di storia tua, no? E quindi era come cancellare la propria memoria e metterne un'altra al posto qualsiasi. Tra parentesi, non abbiamo fatto nemmeno un favore agli americani, perché nessuno sa che abbiamo questo monumento per le torri gemelle, quindi era veramente il paradosso storico. Le colonnine stanno ancora lì, io le chiamo le colonne dello spartitraffico, perché poi, tra parentesi, è stato depredato un altro monumento, le fontane della un altro monumento è stato portato lì, e quindi è anche un proprio storico. E da lì abbiamo cominciato piano piano a vedere i luoghi della città, e i luoghi della città sono veramente dappertutto. Per esempio, forse è andata, cioè la copertina del libro è un cinema che si trova a Torpignattara, che appunto si chiama Cinema Impero. La gente, quando appunto guarda la copertina del libro, mi chiede: ma quando sei stata ad Asmara? Quando siete stati ad Asmara? Perché in realtà c'è un Cinema Impero in realtà in moltissime città italiane, ma soprattutto il Cinema Impero è legato ad Asmara, perché c'è un Cinema Impero molto, molto grande, è ancora funzionante. Quello di Torpignattara non è troppo funzionante, stanno discutendo, hanno aperto alcune aree, però appunto slegato da questa memoria coloniale. E poi sì, abbiamo citato Piazza dei 500, io poi non voglio dilungarmi, ti lascio la parola, però ecco, uno dei luoghi che mi ha colpito di più nella ricerca insieme a Rino è proprio la zona della stazione Termini, perché la zona della stazione Termini per me ha un significato proprio personale, perché è stato il luogo appunto dove si ritrovavano i somali. Io sono nata negli anni 74 e io mi ricordo negli anni 80, ma anche 90, ma anche oggi, che i somali si sono sempre visti nelle retrovie della stazione. Quindi quando dicevi Termini era anche un modo per dire vado a casa, no? Mi ritrovo la mia gente, comunque oggi vai a mandare i soldi fuori, anche se la comunità è diminuita di numero, però oggi lì ci sono ancora i richiedenti asilo somali che cercano di continuare il loro viaggio per il nord Europa proprio dalla stazione. Quindi aveva proprio un legame sentimentale, perché era il luogo in cui mio padre, quando appunto è venuto qui in esilio, frequentava, no? Perché lì c'erano tutti i suoi amici che erano nei vari hotel di Termini, e quindi era un luogo molto importante. E scoprire, io un po' lo sapevo in realtà, però poi metterlo nero su bianco, appunto scriverlo, che quel luogo era anche legato alla storia, no, del colonialismo, mi ha colpito in modo particolare, perché appunto la piazza si chiama Piazza dei 500 perché è legata alla battaglia di Dogali, e lì vicino c'è una stele, proprio una stele che appunto si chiama Stele di Dogali, che è uno dei monumenti secondo me più disperati della città, disperati perché non è curato, ve lo descrivo perché non l'abbiamo fotografato nell'interezza. Praticamente c'è un basamento ottocentesco e un obelisco egiziano, vero? E sull'obelisco egiziano ci cresce tutto, la malva, nessuno l'ha mai restaurato, poi lì è veramente una zona anche di grande disperazione, perché ci sono tante persone che soffrono, no? Che dormono lì. E quindi è denso anche di sofferenza odierna, di sofferenza reale. E poi c'è questo oblio storico, perché appunto quando chiede ai romani perché si chiama dei 500, la gente ti guarda e dice 500, boh, Rinascimento. In realtà appunto sono questi soldati italiani che erano una colonna di rinforzo che doveva salvaguardare un fortino, e non erano veramente 500 morti, ma un po' di meno, e molti morti per l'incuria, perché non sono stati curati adeguatamente. Però ecco, una battaglia che ha, insieme a quella di Adu, insomma, ha creato molto scompiglio nell'intelligenza di allora. In Italia si è molto discusso, un po' come succede oggi, no? Quando appunto muore un italiano, un militare all'estero, no? Penso alla Siria o altri, e si discute su se è giusto o no inviare truppe all'estero. E mi ha anche molto colpito che lì vicino c'è Santa Maria degli Angeli, dove vicino proprio alla stele, dove di solito si fanno i funerali militari, spesso dei funerali di militari morti all'estero. Quindi la storia in qualche modo si ripete. Quindi l'intelligenza, quando parlo di intelligenza italiana dell'epoca, parlo di Pascoli, parlo appunto di Carducci, di tutte quelle persone, no, che abbiamo studiato a scuola, e Pascoli per esempio appunto fece un'ode per i caduti di Dogali, però c'era, grazie a Dio, anche chi invece andava contro, che si rendeva conto che il colonialismo, andare a casa di qualcun altro e distruggere casa sua, era qualcosa di estremamente sbagliato. E appunto c'era questo anarchico che in un suo poema dopo il disastro, lui si chiamava appunto Ulisse Barbieri, dice una cosa molto molto interessante, parlando appunto di Rasa Lula e dell'Etiope. No, non è patriottismo, no, per Dio, al massacro mandar nuovi soldati, né tener lì quel che si sono mandati, perché dei vostri errori paghino il fio. Ma non capito, branco di cretini, che i patrioti sono gli abissini. Quindi, no, questo Ulisse Barbieri era diciamo un uomo molto intelligente, anche perché era difficile all'epoca scampare, no, dalla retorica imperante. E non è stato l'unico, per esempio il socialista Costa, proprio a proposito di questa battaglia, parla di merce più volte avariata, no, che appunto questa retorica di guerra, questa retorica sul colonialismo è qualcosa di estremamente avariato. Invece c'era avariato allora, figuriamoci adesso, no? No, e quindi cioè, c'era stato un bel po' di discussione. Quando è stato fatto questa stele, cioè quando è stato aggiunto il basamento ottocentesco all'obelisco egiziano, Cartucci non ha voluto fare lode, per esempio, e quindi questa cosa mi ha molto meravigliato, perché lo pensavo completamente diverso, e lo era in effetti, però su questa stele lui si è un attimino fermato. E la cosa interessante è l'ubicazione, cioè questa stele si trova davanti alla stazione Termini. Poi quando la stazione Termini è stata, che assomigliava all'epoca, era molto più bella di adesso, alla Gare de l'Est di Parigi, non so, alla Museo d'Orsay per intenderci, era molto ottocentesca, è stata ricostruita dal fascismo, la stele poi è stata spostata dove è oggi, e per moltissimo tempo, c'era davanti alla stele, durante appunto l'occupazione, i 5 anni di occupazione in Etiopia dell'Italia, è stato trafugato un leone di Giuda, ed è stato piazzato davanti a questa stele. Vi dico un'ultima cosa sulla stele di Dogale, che insomma mi ha sempre molto colpito, che probabilmente è stato teatro di una... di un episodio di secessione al fascismo. Cioè un interprete eritreo probabilmente si dice che abbia ferito degli italiani al grido di viva il Negus, viva l'Etiopia. Non sappiamo veramente se questa cosa sia successa o no, c'è molta leggenda, c'è molto chiacchiericcio, però la cosa che mi ha sempre meravigliato è che se effettivamente qualcosa è stata detta, perché nessuno ce l'ha insegnata a scuola. Quindi per me era molto importante ricostruire anche l'aneddotica su questi monumenti, cosa era successo e cosa significano per noi, che significano per noi adesso. Ecco perché le fotografie le abbiamo concepite con Rino in questo modo, cioè il monumento, o comunque la strada che ha il nome appunto dell'Africa orientale, con la presenza di una persona dell'Africa orientale. Non abbiamo voluto raccontare le storie delle persone che ci hanno un po' donato, no, il loro viso, la loro presenza, ma volevamo appunto che parlassero al pubblico, senza sapere, no, che Tizio e Caio fanno, per non influenzare chi appunto vedeva questa fotografia. E noi abbiamo appunto scelto non persone casuali alla fine, no? Abbiamo scelto tutte persone che o lavorano nella mediazione o sono rifugiati o che hanno anche un passato complicato legato alla burocrazia odierna dell'Italia. Per esempio c'è la foto di Amin Nur, che purtroppo io pensavo di averle portate tutte, oggi invece no, però quella di Amin Nur, dove lui è stato, lo abbiamo issato sul piedistallo di Piazza dei 500, che poi piedistallo che tra parentesi adesso nemmeno c'è più, perché lì vicino c'è una brutta statua di Papa Wojtyła, costata moltissimi soldi, ma veramente brutta, assomiglia a Tabacci, non so se me lo ricordo. Cioè non è uguale, cioè ogni volta che la vedo penso questo. Poi vabbè, se c'è la statua, sono state spostate due povere signore che lì stavano, non sono state aiutate, cioè ci sono delle brutte storie cittadine. Però in più, appunto, noi volevamo fare questo nuovo monumento, il monumento di una persona che quella piazza l'attraversa tutti i giorni, la vive, però senza diritti, perché Amin appunto è un ragazzo che sogna di fare l'attore, anzi lo fa già, lavora in una mensa e quando può fa teatro, fa piccole comparsate nei film, ha fatto un film con Valerio Mastrandrea, però il giorno che ha avuto l'occasione di poter fare un film con Spike Lee, quando Spike Lee è venuto qui in Italia, non ha potuto farlo perché non ha la cittadinanza italiana, perché noi abbiamo ancora questa brutta brutta legge sulla cittadinanza che tra parentesi andrà in discussione, finalmente forse si farà una specie di ius soli, una legge come dicevamo prima abbastanza annacquata, però speriamo che passi, che non succeda pure allo ius soli quello che abbiamo visto con l'unione civile, no? Quindi in realtà per noi queste persone si sono donate a noi perché comunque parlare di colonialismo non significa soltanto parlare di antiquariato, no? Ma di qualcosa di vecchio, stravecchio, ma di presente, perché se ci pensiamo basta pensare soltanto al ping pong che stanno facendo oggi con i migranti nei vari confini, no? È tutto legato, io dico sempre tutta colpa del colonialismo, perché in realtà è tutto legato a quello, a quella storia, a quei confini, quelle guerre sono le guerre in Siria, la guerra in Iraq, ma anche la guerra in Somalia, quindi dobbiamo un po' capire che questa storia va approfondita anche per questo. Ma grazie Giaba intanto. Io una prima domanda che ti volevo fare ci sposta a molte migliaia di chilometri da Roma, in realtà, perché leggendo altre cose che hai scritto, no? Ho la sensazione che questo Roma negata in qualche modo parli sia la tua seconda città negata di cui hai scritto, no? Nel senso che in altre tue pagine hai parlato invece di Mogadiscio, no? E di come questa città, soprattutto nel periodo nel quale la guerra infuriava e non ci si poteva tornare, fosse per tanti somali una città negata, perché appunto, no, la si poteva ricostruire soltanto con la memoria, ci si metteva magari appunto tra persone che ci avevano vissuto intorno a una mappa e si provava a dire, vabbè, lì c'era questo, chissà se c'è ancora, lì c'era quest'altro, chissà se c'è ancora, no? Siccome quella è una città coloniale appunto, dove c'erano molti monumenti legati al colonialismo italiano, ti volevo chiedere un po', appunto, da un lato, visto che è una città che conosci, se c'è un modo diverso, in qualche modo, no? Tra Mogadiscio e Roma, di esibire il colonialismo, cioè se il modo in cui il colonialismo si mostra a Mogadiscio era differente. A me ha sempre colpito un fatto, no? Io ricordo, diciamo, dalle foto che ho consultato, soprattutto due monumenti. Uno è l'arco su cui c'era scritto a Umberto I romanamente, no? A Umberto I romanamente, un arco romano trionfale costruito quando appunto il re andò in visita a Mogadiscio. E l'altro è la cattedrale, no? La cattedrale di Mogadiscio, quando venne costruita, era la chiesa più grande di tutta l'Africa orientale, fatta a immagine e somiglianza del Duomo di Cefalù. Proprio è uguale al Duomo di Cefalù, era uguale perché mo non c'è veramente più, era uguale al Duomo di Cefalù, che in qualche modo rappresentava esso stesso, Duomo Normanno, no? La riconquista cristiana della Sicilia musulmana, quindi insomma, no? Si collegava a qualcosa. Allora, la cosa che a me ha sempre sorpreso è che il monumento a Umberto I romanamente sia rimasto lì dove era, anche dopo il periodo coloniale, anche dopo il periodo dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, mentre per esempio in Libia Gheddafi, che più o meno prende il potere negli stessi mesi di Siad Barre, no? Quindi Gheddafi a settembre, Siad a ottobre, Gheddafi subito fa rimuovere molte cose del colonialismo italiano, penso all'arco dei fileni che poi dopo vedremo, che segnava il confine tra Cirenaica e Tripolitania, Gheddafi subito lo fa togliere. Come mai invece questo a Umberto I romanamente è stato mantenuto? Come secondo te lo guardavano i somali, no? E è stato mantenuto e questo ha fatto sì che ci fosse una maggiore consapevolezza invece magari, no, del passato coloniale italiano legato a Mogadiscio, è stato tenuto invece perché ci si è dimenticati di buttarlo giù e tutto sommato era in mezzo a una aiuola, dei giardini e vabbè, andava bene anche così. E niente, insomma, ti volevo chiedere un po' che effetto faceva passeggiare per la Mogadiscio. Poi c'è anche Antar qui davanti, per cui probabilmente su questo vi date man forte. per la Mogadiscio coloniale e post-coloniale, che però manteneva tante cose del colonialismo italiano. È una domanda non semplicissima, però io posso dirti quello che sta succedendo adesso anche a Mogadiscio, perché un po' rispecchia anche un po' la nostra mentalità. In questo momento Mogadiscio sta vivendo una specie di strana bolla edilizia. No, ve lo dico perché ci sono contese nei tribunali per le case. Tra parentesi, la casa di mia madre in questo momento era stata occupata da una persona che non aveva la proprietà della casa e dice che è sua, quindi stanno succedendo queste cose a Mogadiscio. Però purtroppo quello che sta succedendo alla città è che ha cambiato completamente volto, non soltanto per la guerra l'ha distrutta, ma adesso è ricostruita molto male, senza un piano edilizio, grandi speculazioni, palazzoni alti. Soprattutto è qualcosa che mi preoccupa a livello di cambiamento climatico, perché basta che succeda, non so, una grossa tempesta, uno tsunami, che tutta quella roba potrebbe cadere giù. Allora io, non avendo vissuto molto tempo a Mogadiscio, io andavo e venivo tutte le estati e poi sono rimasta anche per un po' di tempo, quando ero piccola, ho sempre notato che questa storia del colonialismo non era mai una priorità, no? Cioè, c'era sempre qualcosa da fare più importante, cioè era rimasto, almeno ti dico a livello di percezione, era rimasto appunto come grande aneddotica, ma non c'è stato appunto la presa di coscienza degli anni 50, dunque, dove c'era la Lega dei Giovani Somali che non voleva gli italiani, che non voleva l'amministrazione fiduciaria quasi di nessuno, voleva giustamente passare alla democrazia perché nessuno ti dovrebbe insegnare la democrazia. Poi però si sono dovuti comunque piegare a questo, e secondo me quello è stato uno dei momenti in cui, questo almeno questa è la mia opinione personale, in cui penso che qualcosa è andato storto nella storia somala, perché appunto se ti insegna la democrazia proprio il paese che ti ha colonizzato, non è che partiamo bene. Il paese che ha avuto 20 anni di fascismo, comunque ha i numeri, diciamo, e tra parentesi era credibile. E soprattutto non era nemmeno membro delle Nazioni Unite, cioè le Nazioni Unite hanno imposto questa cosa alla Somalia, però l'Italia non era membro delle Nazioni Unite negli anni 50, entrerà nelle Nazioni Unite nel 55. Quindi in un certo senso c'è stato veramente un obbrobrio storico, e io penso che questo non abbia aiutato alla formazione di coscienze veramente, no? Persone sono fantastiche, i somali sono fantastici, i miei fratelli, i cugini che hanno fatto scuole, anche lì insomma hanno fatto quello che hanno potuto, però spesso erano o scuole italiane o scuole arabe, non era mai una tua visione degli accadimenti. A me mi ha sempre molto colpito che i miei fratelli più grandi hanno fatto lo stesso programma di studi che ho fatto qui in Italia, quindi che ne so, Pasquali, Dante, Petrarca, o come dico sempre, mia cugina ancora oggi mi chiede se Gianni Morandi ha fatto un nuovo disco, perché lei ascoltava Gianni Morandi, no? Quindi dice, perché? Sì, ha fatto un nuovo disco. Sì, no, adesso dico, ha fatto un nuovo disco in più Facebook, lei lo guarda, no? No, e quindi si spopola troppo su Facebook. E però la cosa la cosa triste è che comunque c'è stata veramente una poca coscienza di quello che ti è capitato nel passato. Poi chiaramente è venuto sia Barre col suo periodo, diciamo, lui ha avuto due grossi periodi, poi Hunter tu me lo dirai con sicurezza, un periodo diciamo più socialista comunista e un altro un po' più americano, legato più ai poteri appunto delle multinazionali, eccetera. Quindi la gente ha subito tutto un lavaggio di cervello da un momento all'altro, cioè sono state tre fasi storiche completamente diverse dove veramente non hai potuto mettere al centro la tua storia, dovevi sempre stare comunque legato alla storia di qualcun altro, almeno questa è la sensazione che io ho avuto vedendo un po' questa storia, un po' da fuori, un po' da dentro, no? E adesso in questo momento c'è una ricerca di molte persone di quello che è successo, cioè proprio oggi c'è anche un piccolo, nuove generazioni che si stanno mettendo a scrivere soprattutto donne che si stanno occupando del passato, archeologhe che vanno in Somalia a scavare. Quindi io penso che in questo momento, con tutto che siamo di nuovo una colonia un po' turca, un po' americana, un po' di tutti, però ecco, c'è una voglia, soprattutto dalla parte della diaspora, di capire cosa siamo stati, no? Insieme a tante storture, no? A tante storture che invece ci sono ancora, i nostri dissidi appunto clanici, i soldi sporchi, il terrorismo. Quindi è un paese che ha vissuto veramente fasi molto, molto pesanti. Per quanto riguarda l'Arco di Trionfo, io non lo so, poi tu me lo dirai, perché quella Mogadiscio l'hai vissuta. Forse se lo sono dimenticato, non lo so, non ho mai capito, perché poi in realtà ci sono, non era l'unico monumento, c'erano tantissime, tantissime piccole cose nella città, anche le banche, no? E quindi mi ha sempre colpito quando appunto la prima volta che io sono andata a Mogadiscio di vedere qualcosa di talmente, no, familiare, come appunto un Arco di Trionfo. Ho detto, ma come mai? Perché da piccola appunto non sai, no? Non sai la storia. E poi c'è stato anche l'ultimo periodo prima della guerra civile, che Fiat Bar era molto legato a Bettino Craxi. Io questa cosa me la ricordo proprio bene, perché ero a scuola e per credo per 2 settimane non ci hanno fatto, io facevo la scuola italiana a Mogadiscio, quella vicina all'ambasciata, e per 2 settimane non abbiamo fatto altro che studiare Lino di Mameli, tutte e 3 le parti. No. Io quando è venuto Craxi? Quando è venuto? 85. 17 colpi tutte di cannone. Tre le parti. Io mi ricordo Craxi e Sariana. Si rubarono i portafogli a vicenda. Sì. No, poi io mi ricordo anche le aveva passato le prostitute. Cioè avevo questi ricordi in arco di tante donne intorno a Craxi. Però la cosa che mi ha io ero da bambina, ero molto contenta. Ho detto almeno si mangia, cioè non pensavo a Craxi. Però ecco, tutte le 3 le parti per 2 settimane è la cosa più coloniale che ho vissuto proprio sulla mia pelle, perché la terza parte del Lino di Mameli non si può veramente sentire, no? Cita anche Balilla, no? Insomma, perché povero Mameli, lui non sapeva cosa avrebbero fatto del suo inno, però insomma è stato veramente pesante. E invece sono curiosa di sentire Antar, perché questa è una domanda secondo me a cui può rispondere più lui, che quella Mogadiscio l'ha vissuta intensamente. Antar Mohamed Marincola. Grazie. Grazie, grazie. Grazie Giada, Roberto e Giovanni. È una grandissima occasione ritrovare così tanta famiglia. E no, in realtà io studiavo sotto romanamente nel giardino con mia madre quando faceva l'insegnante nella scuola. E il fatto è che la Libia era ricca, cioè quando Gheddafi un mese prima arriva al potere, comunque lui sa che sotto alla sua terra c'è il petrolio, quindi lui butta via tutto, manda via subito gli italiani. I somali non lo fanno, la Somalia non lo fa a mandare via gli italiani, non nazionalizza a parte piccole cose, la scuola, le robe, però la sostanza delle cose resta in qualche modo, perché c'è proprio un approccio completamente diverso a questa dimensione della presenza, no? Però ad esempio una delle cose perché è difficile parlare di un paese che è in guerra dal 90, è molto complicato, cioè è quasi struggente, cioè fa dolore, no? Avere a che fare ancora. Ieri c'è stato l'attacco all'ufficio presidenziale Shabab. Io lavoro con i ragazzi somali che vengono con i barconi, c'è fuoco a mare, c'è la partita nel campo, i somali, Somalia, Somalia, cioè è un eco doloroso, per me è molto doloroso perché tu sei nata a Roma, io sono nato a Mogadiscio. Io sono venuto via 20 anni da Mogadiscio, io ho fatto sia bar, mi facevo le sfilate, ero sotto il sole, cantavo le canzoni del regime. Quindi c'è tutta anche. E poi C'è proprio una... Sono venuto a studiare fuori con una borsa di studio quando ancora... C'è veramente un grande... Cioè, è proprio quello che dico, che è un convivio tra famiglia. Però la cosa che mi pongo io adesso, siccome è una storia così densa, tra, tra persone come Giovanni, Roberto, Ijaba, ma noi come riusciamo a raccontarla ai bengalesi, ai pakistani, agli afghani? Perché poi in realtà eritrei, somali, etiopi, libici, in Italia sono pochi. Cioè, noi come riusciamo a tradurre questa memoria, questa ricchezza, questa forza, questa resistenza? Cioè, come la riusciamo a tradurre con le persone con le quali abbiamo a che fare costantemente e quotidianamente? Che sono, credo, in parte la maggioranza, e sono in realtà anche le persone più presenti sul nostro territorio, di quartiere, di casa per casa. E questa è una grandissima difficoltà che io ho, perché io ho questa memoria, ma non riesco a tradurla. Come possiamo farla a tradurre questa memoria a persone che vengono da altri colonialismi, totalmente diversi, totalmente lontani dal nostro vissuto, italiani e somali? Grazie a te. Interessante, perché c'è stata una discussione, ieri sera ero a Vigliana in Val di Susa, dove avevano fatto una conferenza più o meno anche su questi temi, tra l'altro, e mi raccontavano che avevano fatto una serata con alcuni profughi curdi, parlando non di Kobane, come potrebbe essere, insomma, come ci si potrebbe aspettare, ma parlando proprio della storia dei curdi e della condizione dei curdi in Turchia. E c'era questo ragazzo profugo che ha tenuto una relazione molto bella, che lui sta a Torino, e alla fine del dibattito tutto sono andati in osteria e gli hanno detto: sai che poi tra qualche sera invece facciamo una serata sulla memoria rimossa del colonialismo italiano. E lui ha detto: cioè, in che senso? Cioè, non sapeva nulla. E allora gli hanno raccontato del genocidio in Cirenaica, gli hanno raccontato dei 16 campi di concentramento della Sirtica, gli hanno parlato del Corno d'Africa, eccetera, e lui era all'inizio era sconvolto, perché sono anni che vive a Torino e nessuno gli aveva mai raccontato questa cosa. Quindi è appunto l'esperienza di un altro colonialismo che viene a contatto con la memoria rimossa del nostro, e dopo un po' ha cominciato a vedere le similarità tra il negazionismo del genocidio armeno, ad esempio, che c'è in Turchia, e il negazionismo dei crimini di guerra italiani che c'è da noi, perché sono molto simili queste cose. Ci sono degli argomenti tabù che non puoi affrontare nel discorso pubblico. Esistono degli storici, esistono degli artisti che ne parlano, ma non diventa mai senso comune generale. Come diciamo spesso noi, non vedrete mai una fiction in Rai 1 in prima serata sulla guerra chimica in Etiopia, non vedrete mai queste cose. E lui ha fatto il parallelo, è come i turchi col genocidio armeno o con la repressione di noi curdi. E quindi c'è stato in quel momento una comunicazione tra le memorie di due colonialismi. E quindi mi colpisce molto questa domanda che hai fatto a te, perché sono veramente convinto che sia una questione cruciale. Sì, è una questione super cruciale. Infatti io personalmente ho trovato un mio modo per riuscire a comunicare, e faccio laboratori nelle scuole, e soprattutto in alcune scuole, per esempio la Pisacane a Torpignattara, che è forse la scuola insieme alla di Donato che ha il più alto tasso di alunni non originari appunto come me dall'Italia, ma hanno genitori appunto del Bangladesh o appunto Marocco o altro. E la cosa che ultimamente sto facendo è che gli ho portato un racconto ai bambini, perché poi attraverso i bambini raggiungi anche i genitori, di un rinoceronte. Io dicevo: no, perché il rinoceronte che c'entra col colonialismo? Invece è molto interessante, perché poi avevo scritto una storia su questo rinoceronte, ed è un rinoceronte che è stato portato nel 1700 da dall'India, perché poveri, questi poveri animali hanno fatto la stessa fine dei colonizzati, cioè venivano portati da una parte all'altra, sfruttati, e questo rinoceronte è stato portato dall'India a fare un tour in tutta Europa, chiaramente scattato a 20 anni, perché i rinoceronti di solito arrivano a 50, e gli hanno anche dato un nome, e si chiama Clara. Quindi Clara, a un certo punto in Germania gli danno questo nome Clara, e se voi digitate su Google Clara rinoceronte vedete tutte immagini, quadri, pitture. E quindi io cosa ho fatto per spiegare il colonialismo, che è qualcosa di veramente complicato, soprattutto a dei bambini? Ho usato questo rinoceronte, abbiamo usato i quadri, abbiamo usato le immagini, che abbiamo il tragitto, i paesi, perché poi veniva da un posto molto vicino del Bangladesh, Chinsurah, quindi abbiamo fatto con i bambini tutto questo percorso. Le mamme dopo alla fine mi sono venute a ringraziare, perché chiaramente sono riuscita piano piano a mettere un discorso complesso nella testa dei bambini, che poi hanno disegnato. All'inizio erano in crisi, non sapevano come si disegnava il rinoceronte. Comunque era per dire che secondo me le strade per la traduzione possiamo trovarle insieme, perché saremo sempre di più una società multiculturale, e quindi dovremo trovare sempre nuove vie di traduzione. Questo è un problema che mi pongo spesso anch'io quando scrivo, perché mi chiedo: ma chi sarà il mio pubblico? O come, quindi ti viene che in testa, no, il tuo pubblico è, non so, una donna italiana, e invece è giusto, io sono contenta di avere tante donne italiane come lettrici, però sto cercando anche, no, di mescolare, e quindi il mescolamento però deve arrivare da un lavoro certosino che dobbiamo fare appunto nei quartieri, nelle scuole, e sicuramente non con le recensioni dei giornali e non con le prime pagine o che ne so. Quindi è un lavoro molto molto difficile, però io penso che la scuola sia un istituto di prossimità molto importante, perché attraverso la scuola puoi raggiungere i genitori, e soprattutto scuole come la Pisacane fanno degli incontri come questo il pomeriggio, quindi forse questo potrebbe essere, non ti dico l'unica via, ma una delle vie, insieme a quella appunto che diceva Roberto. Mentre io sì. L'hai detto che le mamme della Pisacane sono quelle che hanno cacciato via Borghese. Sì, sono state grandissime. Tra l'altro la Pisacane è anche... Noi siamo anche, andati noi. Siamo stati anche io e Antar, ma è interessante come posto, perché inizialmente, diciamo, no, un certo tipo di famiglia romane evitavano la Pisacane, appunto, perché invece adesso c'è anche un gruppo di persone che invece cercano di mandare i figli alla Pisacane, qualcuno, perché dicono lì si fa invece educazione, no, al mondo, a come funziona la realtà, no? E penso che questo comunque sia in parte della risposta, cioè io mi sono reso conto che a volte per instaurare anche quel dialogo che diceva Antar, basta conoscere anche poco inizialmente del paese, della persona che hai di fronte, poco della storia, no? E molto spesso queste persone, di fronte alla normale, abissale ignoranza che soprattutto in Italia si ha del mondo, no? Appena anche soltanto sai dove sono quattro città del loro paese, già si illuminano, no? Adesso ovviamente appunto con i somali abbiamo un passato comune, quindi è più facile, ma io mi ricordo che quando in alcuni giri con Piazza Grande incontravo dei rifugiati somali, dei ragazzi somali, e cominciavamo a parlare, anche soltanto il fatto che io sapessi i nomi dei clan della Somalia, delle kabile, insomma, o di due o tre città, o sapessi che era esistito Siad Barr, per loro: ah, ma tu sei tutto del nostro paese. Dicevano: no, io so tutto, però... abituati che magari loro sanno molto dell'Italia, sanno qualcosa dell'Italia, vengono qua e la gente pensa che la Somalia sia un'isola dei Caraibi, come diceva, no, il titolo di un libro di Mohammed Aden Sheikh. Ecco, già basta poco. La cosa che mi chiedevo era rispetto anche, diciamo, alla guerriglia toponomastica, no, che è un tema che a noi interessa, nel senso, Ovviamente, come facciamo a far parlare la città negata, no? La città, soprattutto quella, diciamo, coloniale che ci interessa? Nel tuo caso, appunto, avete fatto foto, avete fatto un libro, hai scritto delle cose, hai portato delle persone. Ecco, ovviamente il libro uno lo può trovare in libreria, eccetera. Come facciamo, diciamo, a, secondo te, insomma, se hai sperimentato, se hai provato a fare delle cose, a risemantizzare anche in maniera permanente questi posti, no? In maniera che poi chi ci ritorna non trovi più il vuoto, ma trovi qualcosa che magari anche soltanto gli fa venire il dubbio che forse quel posto possa essere interessante da capire meglio, da approfondire, eccetera. Noi ce lo poniamo perché, appunto, al di là del mettere qualche adesivo su dei cartelli stradali, fare un trekking urbano qui molto partecipato, eccetera, però abbiamo bisogno anche di nuove idee, quindi ci piace confrontarci anche su questo. Okay. Io vi dico quello che ho fatto, e poi magari insieme troveremo anche delle nuove idee, perché piacerebbe anche a me risemantizzare per esempio il quartiere africano a Roma. E il problema è che il quartiere africano a Roma forse è uno dei più fascisti della città. Come popolazione. No, ci sono sedi di Forza Nuova, e quindi lì devi andare anche corazzato un pochettino. Però la cosa che noi siamo riusciti a fare è un accordo un po' con la biblioteca di quartiere, e abbiamo fatto un reading itinerante proprio delle persone che ci seguivano. Abbiamo fatto 2 giorni, un po' come qui, e le persone ci seguivano nei vari posti. Quindi, senza dire questo posto è legato all'Africa orientale, partivamo con delle letture, e devo dire che quello ha avuto un riscontro nel quartiere abbastanza forte, anche perché le biblioteche è un altro luogo di prossimità che aiuta a conoscere il territorio, e quindi ti aiuta in qualche modo a creare dei legami. Io poi chiaramente l'abbiamo portato un po' per tutta Roma le persone, però forse ma adesso ci stavo proprio pensando adesso, quindi è un'idea, magari dite che è bruttissima, quindi non va, però magari fare anche un accordo con i negozianti, le persone, e dargli, non so, un logo, dei libri, e dire ok, potete vendere insieme a, che ne so, i prosciutti, potete vendere, che ne so, questi libri che parlano, non so, l'abbandono di Erminia dell'Oro, cioè cominciare a portare roba in questi luoghi. Forse è una delle cose che si potrebbero fare, soprattutto penso proprio al quartiere africano a Roma, che è un quartiere di shopping di fatto, no? È un quartiere, sì, la gente ci vive, ma cioè va anche a comprare robe, quindi potremmo fare anche questo. In realtà in un mondo migliore servirebbero delle istituzioni attente, no? Che cambierebbero anche alcuni nomi delle vie, perché ci sono in tutta Italia un po' di nomi che non vanno, dedicati ai criminali di guerra, e poi dare veramente significato anche a luoghi che uno non si aspetta, perché adesso abbiamo parlato di Bologna o di Roma, ma io penso al grandissimo Ascaro gigantesco che sta a Siracusa, c'è questo monumento che appunto ho trovato un giorno su internet. Io non sono ancora andata mai a Siracusa, e una mia amica siciliana mi ha detto: ah, ma è il lungomare. Io ho detto: ma no, come il lungomare? Ma non hai visto questo ascaro gigantesco messo lì? E quando io gliel'ho detto, lei ci ha fatto caso, no? Perché molto spesso la gente non vede il monumento, ma vede il paesaggio, no? Quindi forse l'unica cosa è andare proprio in quei quartieri, nelle scuole, nelle biblioteche, nei luoghi di prossimità, nei negozi, inventarci un logo, magari possiamo inventarci un logo tutti insieme, e riuscire a rendere comunque prima consapevoli le persone, e poi magari inventarsi sempre più cose. Cosa non so bene, però cominciare almeno un discorso col quartiere, e chiaramente corazzandoci dai fascisti, perché questo è un po' un problema, almeno io lo sento molto ultimamente, perché ogni cosa che scrivo, voi lo sapete molto bene, meglio di me, cioè sei sempre comunque sotto attacco di troll, di persone che comunque su questi temi, purtroppo, purtroppo sono più attenti di persone come noi, no? Sono attenti e sono lì pronti ad azzannarti. Però ecco, è proprio per questo che dobbiamo fare sempre più lavoro, anche perché il tessuto urbano intorno si sta deteriorando, no? I nazionalismi e i populismi stanno crescendo e le vittime sono sempre le persone più deboli. Adesso, per esempio, dico questo e poi ti lascio la parola: la campagna elettorale a Roma si farà tutta su contro i Rom, cioè già sono partiti così ed è molto molto grave. Posso? No, velocissimo, perché fantastica questa cosa che dicevi tu sulla campagna. No, un'idea che pensavo per il lavoro che state facendo voi al quartiere, sarebbe bello ribattezzare tutto il quartiere con dei partigiani e delle partigiane, nel senso fare un lavoro su letture, sul territorio, sui pezzi, proprio fare un lavoro su una totalmente, siccome è un quartiere che ha una memoria legata al coloniale, alla Cirenaica, Libia, robe varie, fare ribaltare totalmente tutto e farne un discorso totalmente farne un discorso, perché tanto comunque oggi, come giustamente lei diceva, la partita si sta giocando su quello, cioè in qualche modo le derive sono quelle e attaccare, quindi completamente rifare un discorso completamente diverso. Ma anche i rifugiati, no? I richiedenti asilo, no? Io penso sempre alle tombe anonime, e c'era una volta a Roma è successa questa cosa e non è mai più capitata, che si è fatto nel 2005 appunto un funerale a Piazza del Campidoglio di 13 somali morti, sì, vicino a Lampedusa. C'era Veltroni. C'era Veltroni, sì. Ma la cosa che mi ha molto colpito è che all'epoca 13 persone morte erano tante, no? La gente si è sentita male, è venuta in piazza, si è pianto tutti insieme, c'era tutta la comunità somala al completo, e oggi questo no, cioè muoiono 300 persone e quasi non ce ne accorgiamo, no? Si decide dei bambini nell'Egeo, quindi magari veramente, no, partigiani e rifugiati, no? Se riuscissimo già a fare questo tutti insieme sarebbe bello. Volevo chiederti di quella foto che non avete fatto, perché per come la descrivi sarebbe stata di una potenza veramente inattesa, sarebbe stata una detonazione, però spieghi i motivi per cui da un lato non avete potuto, da un lato non vi siete sentiti di farla, quindi volevo che raccontassi questa cosa. Allora, la foto che non abbiamo fatto è quella a Palazzo Venezia, che non è proprio, è legata al colonialismo ovviamente, perché lì c'era il Duce, e noi la cosa che volevamo fare, no, una cosa proprio contro questa aurea di leggenda che c'ha quella finestra, perché quando uno passa lì col motorino, con la macchina, con l'autobus, soprattutto con l'autobus, c'è sempre qualcuno che ti dice: lui stava lì. Sì, e quindi c'è una cosa che mi ha sempre dato un fastidio enorme. Allora avevamo pensato di portare lì dei rifugiati, dei richiedenti asilo, sorridenti da quella fine sul balcone, perché poi sul balcone non è vero che non ci si può affacciare, perché da un po' di anni teoricamente ci sarebbe la possibilità, ma nessuno lo fa perché si ha paura di aprire quel balcone. E questo la dice molto lunga sul nostro rapporto col fascismo e su quei 20 anni. Poi tra parentesi, non so se avete sentito che adesso vogliono fare un museo del fascismo a Predappio. Io ne volevo assolutamente scrivere qualcosa, perché a Predappio non si può fare assolutamente, a parte che non si dovrebbe fare un museo del fascismo, ma un museo su una riflessione sui totalitarismi, qualcosa di completamente diverso, perché il rischio è che il museo del fascismo diventa una cosa super celebrativa, una sorta quel contesto di... Poi a Predappio e probabilmente verranno dati 2 miliardi di euro per fare questo progetto, che ne costerà, non so, ho letto 4 miliardi, e pensando, no, in un momento di crisi, cioè come butta i soldi dalla finestra. E allora noi volevamo fare questa foto, poi abbiamo pensato no, però rimettiamo a rischio i rifugiati, i richiedenti asilo, e comunque dobbiamo tener conto che non è facile abbiamo pensato a un certo punto di fare una foto, no? Abbiamo pensato varie ipotesi, poi però ci siamo scontrati con la burocrazia di Palazzo Venezia, perché abbiamo scritto alla sovrintendenza, abbiamo scritto un sacco di lettere e ci hanno detto vabbè, potete anche fare la foto al balcone, perché poi alla fine volevamo fare la foto al balcone vuoto, senza nulla, no? E le avevamo chiesto, ma possiamo togliere l'asta, perché lì ci sono le aste per la bandiera europea e quella italiana, no? E perché non so se avete presente Palazzo Venezia, ci sono le pubblicità di quello che ci sta dentro per le mostre, e poi c'è la bandiera, e ci hanno detto, ah, le aste non le possiamo togliere, ma se volete fare la foto, l'asta la teniamo lì, la bandiera però dovete aspettare il giorno che le mandiamo in lavanderia. E io non ci potevo credere, cioè non potevo credere che la bandiera in lavanderia era qualcosa di assolutamente esilarante. Alla fine abbiamo veramente, dopo mesi che stavamo dietro, detto vabbè, fa niente, raccontiamo questa storia. Devo scoprire in che lavanderia. Sì. Cioè guarda, sono quelle cose. Avrei delle idee. Avrei anche delle idee. E quindi sì, è stato assolutamente rocambolesco, perché poi le altre foto chiaramente sono state molto più semplici, perché erano appunto luoghi pubblici, a parte quella della copertina che abbiamo, non so, quella che abbiamo passata varie volte, che abbiamo issato la povera Ruth su un cassonetto dell'immondizia, perché volevamo, appunto Rino voleva prendere in altezza il cinema. Però ecco, questo, secondo me, questa storia che vi ho raccontato la dice lunga sulla nostra relazione col fascismo, e penso che adesso si sta discutendo appunto su questo museo, noi corriamo comunque un grosso rischio di avere un museo a Predappio, che mi sembra una cosa che è allucinante, perché poi questo si inserisce, e nel libro c'è, ma poi appunto in Giappo se ne è parlato più volte, nell'obbrobrio che abbiamo da file, no? Noi abbiamo questo obbrobrio che è una specie di cubo che a me mi sembra un po' un cesso, ma nel vero senso Vespasiano, vero? Perché poi il Vespasiano vero è uguale, cioè quello che accanto l'hanno costruito uguale, in miniatura, e dedicato a Rodolfo Graziani, no? E abbiamo fatto un po' di tutto, tutti noi tre, no? Abbiamo scritto varie volte, ma non solo, siamo andati. Esatto, lo so, e siamo anche andati lì, manifestazioni, ognuno ha provato a fare qualcosa, perché tutto questo a Baradan è stato fatto con, appunto, a Baradan è stato fatto con i soldi pubblici, cioè della regione Lazio. Io veramente sono andata a parlare con i vari Zingaretti, con i vari Sperilio, cioè queste istituzioni, perché gli dicevo scusate, ma non possiamo avere questa vergogna nel nostro territorio. E loro mi dicevano sì, c'ha ragione, ma non si può, no? E quindi è stato veramente disperante vedere quanto la politica non considera il simbolico, no? Perché già quella terra ha delle problematiche grandi, però mettere un mausoleo a Rodolfo Graziani, che ha gassato le popolazioni, ha ucciso un sacco di persone, è veramente uno sfregio alla nostra Costituzione, alla nostra democrazia, ed è qualcosa che dobbiamo buttare giù, no? C'era chi a un certo punto diceva lo dobbiamo riconvertire, che riconverso è una roba brutta, cioè poi proprio piccola, no? La devi buttare giù, punto, e devi fare un lavoro sociale in quella città, perché poi il sindaco di Affile, che ha fatto tutto questo, era messo di scuola elementare, quindi pensate quanti danni. Poi io andando lì mi sono resa conto di un fatto, che loro non è che hanno un attaccamento a Graziani, cioè gli abitanti non hanno un attaccamento a Graziani perché era Graziani, è l'eroe locale. Poteva essere uno del Grande Fratello, cioè poteva essere uno che è andato a The Voice, era uguale, e quindi forse quel territorio ha bisogno di un lavoro. Prendiamo uno di Affile e lo mandiamo a The Voice. Forse è meglio, Graziani, Affile o Affilettino, insomma, perché anche Affilettino c'è il parco, che poi sembra Auschwitz, cioè sembra veramente la cancellata di Auschwitz, sì. fa veramente un po' senso. Però ecco, vi dico questo, Affilettino ha incontrato un signore veramente gramsciano, che mi ha detto in questa città è nata una canaglia. Cioè il fatto che è appunto Rodolfo Graziani. Sicuramente qualcuno vuole fare domande, interventi. Dico qualcosa di molto breve sul museo di Predappio, perché appunto c'è una controversia, perché anche, c'è stato anche un appello di storici che hanno invitato a non demonizzare questa cosa, perché l'intento sarebbe quello di compensare con un discorso razionale, una contestualizzazione storica sul fascismo di valore scientifico eccetera, il fatto che Predappio è meta di queste orde, di pellegrinaggio di queste orde che vanno lì e fanno il saluto romano e celebrano il duce eccetera. Io credo che sia molto mal concepito come progetto, perché in quel contesto lì non è possibile fare un discorso del genere. Tu non puoi pretendere che di fronte allo scempio di Benitolandia con i labari e tutte queste cose tu fai il museo dove fai il discorso posato, serio, razionale, e questa cosa dovrebbe servire a chi? Cioè chi va a Predappio a vedere una roba del genere? A Predappio ci vanno i fascisti, quelli lì se entrano nel museo uno non è che puoi puntare a convertire questi perché sono già perduti, ma poi vengono dentro delle due, o non capiscono niente di quello che vedono, oppure si esaltano solo perché vedono il duce, cioè non importa di cosa c'è scritto sotto ai cimeli e a cose del genere. Quindi, e poi c'è anche l'illusione che di fronte al mito, alla potenza del mito, tu con un discorso meramente raziocinante possa disinnescare quella roba là, che è uno sbaglio da ogni punto di vista, proprio cognitivo, di comunicazione eccetera. Non è sul piano della ragione che da sola basta, che puoi contrastare quella roba là, e soprattutto anche perché cioè, veramente voi vi vedete che qualcuno vada a Predappio a vedere il museo del fascismo? L'altra sera mi hanno fatto questa domanda, io avendo fatto anche tutto questo discorso posato, poi ho usato un'iperbole, ho detto sto per usare un'iperbole, è una battuta, dicevo quel contesto lì è mefitico di suo, Predappio, andrebbe costruita a poca distanza una new town, nuova Predappio, dove deportare l'intera popolazione, poi Predappio andrebbe completamente raso al suolo e sulle macerie è cosparso il sale grosso. E poi ho detto chiaramente è una battuta, no? Io direi che siccome hanno il problema di come utilizzare la Casa del Popolo, perché il museo del fascismo lo vogliono fare sulla Casa del Popolo, io c'ho più, in maniera più modesta, tirerei la mano di bianco sulla facciata della Casa del Popolo e poi ci proietterei vita naturalante piazzale Loreto. L'immagine di piazza, così i fasci quando vanno a celebrare il duce c'hanno quello, perché quella è la, appunto la risposta razionale, no, posata, non funziona. Quella roba lì, insomma, almeno parla la stessa lingua, no? Di quindi io farei... Cioè, datevi al bungee jumping. Esatto. Però senza elastico. Ecco, vai. Io direi il bisogno di sentirvi ragionare su una specie di smontaggio della macchina coloniale in dispositivi e che ci segnalaste dove questi dispositivi sono all'opera, per esempio nel rapporto con i migranti, cioè in che maniera li ritroviamo, magari sotto mentite spoglie, in che ambiti, nelle scuole, nei centri di accoglienza, nelle frontiere, nei mass media, vai tu, lui è pieno. Vabbè, e io, cioè, diciamo, tutti e tre sono venuti in mente una cosa, poi dopo ovviamente pian piano ce ne vengono in mente altre. E quello che ci è venuto in mente è l'editoriale che il direttore della Stampa Maurizio Molinari ha scritto 10 giorni dopo essersi insediato, più o meno, due settimane dopo essersi insediato, rispetto ai presunti fatti di Colonia, cioè ovvero a quello che si diceva di quello che era successo a Colonia, no? Perché in quel momento lì non si aveva una idea di tutto questo. E Molinari ha scritto un pezzo nel quale attribuisce sostanzialmente alla mentalità tribale delle popolazioni del Nord Africa e del Medio Oriente, diciamo delle popolazioni che lui identifica come andare da Gibilterra a Hormuz, quindi no, una bella fascia, l'atteggiamento appunto che i alcuni soggetti maschili hanno messo in scena, avrebbero messo in scena a Colonia, perché cioè persone abituate a lottare nel deserto per pozzi d'acqua, bestiame, donne, e quindi queste persone inevitabilmente riproducono questo loro atteggiamento, e a maggior ragione oggi, perché se fino all'altro ieri avevano, diciamo, degli stati nazionali che in qualche modo ne tenevano a freno gli atteggiamenti tribali, oggi questi atteggiamenti sarebbero ritornati in superficie e tornerebbero appunto a funzionare come dispositivi, no, sui soggetti, perché in Libia non c'è più Gheddafi, perché in altri contesti ci sono guerre, e quindi il tribalismo. E Molinari sosteneva che la funzione dell'Europa in tutto questo deve essere appunto quella di contrapporre sostanzialmente la civiltà al tribalismo, no? Per dire questo prendeva ad esempio Lawrence d'Arabia, che secondo lui, appunto ignorando la storia poi in maniera sesquipedale, avrebbe in qualche modo tolto dalla mentalità tribale le popolazioni del Medio Oriente, alcune popolazioni del Medio Oriente, per dargli un'idea nazionale, no? Per convincerle che invece c'era bisogno di fare stati nazionali, quando insomma è noto che Lawrence d'Arabia utilizzò proprio la mentalità tribale per favorire la Gran Bretagna, per favorire l'impero britannico durante la prima guerra mondiale. Ecco, questo è un esempio abbastanza classico, no? Di, da un lato, fardello dell'uomo bianco, cioè riproposizione con altri termini, ma nemmeno troppo altri, del fatto che appunto l'Europa ha una missione civilizzatrice, che da un lato, la cosa interessante è che da un lato nasconde, invisibilizza, diciamo, il nostro tribalismo, perché è quantomeno curioso che l'indicazione a combattere il tribalismo venga dal paese del familismo amorale, dei clan di mafia, no? del welfare familiare come unico welfare che funziona nel paese. Questo è strano, no? Che proprio da noi debba venire il grido: attenzione, arrivano le tribù, no? Insomma, quindi da un lato invisibilizza il nostro tribalismo, e dall'altro ovviamente acutizza quello degli altri, gli dà anche un'interpretazione oltretutto culturale, no? Cioè questi atteggiamenti tribali, queste sarebbero di fatto una specie di corredo genetico che queste popolazioni hanno, no? E che nel momento in cui non c'è più qualcosa che lo tiene a bada, torna su. Non è qualcosa che è motivato storicamente da condizioni materiali, da condizioni economiche. Costoro non sono capaci di giocarsi politicamente il tribalismo, come invece è avvenuto in Somalia, è avvenuto in Libia e avviene in Italia, no? Ma invece sarebbero di loro natura. Quindi c'è un altro discorso che più razzista di così non me lo potrei immaginare, no? Cioè il fatto che determinate popolazioni per natura hanno un certo atteggiamento. Ecco, quando tu senti dire da qualcuno che un popolo, un'etnia ha una certa mentalità per natura, e la cultura che queste persone manifestano non è qualcosa che ciascuno fa nella sua vita, ma che le persone hanno, come hanno un codice genetico che si portano dietro, no? E per forza di cose tu vieni da quel paese lì, hai quella cultura, no? E cosa che chiaramente invece quando incontri i migranti viene costantemente messa in crisi. Ci ha scritto un bel libro Marco Heim che si chiama Eccessi di culture, dove, no, fa vedere appunto anche il dispositivo nelle scuole, anche nelle buone intenzioni, che spesso lo sappiamo sono un aggravante, ma fa alcuni esempi, tipo la maestra che chiede ai bambini della classe qual è una favola che classe dove ci sono tanti bambini, tante provenienze. Scrivi una favola che si racconta al tuo paese. Il bambino di Casablanca torna e sul quaderno ha scritto un episodio dei Teletubbies, e la maestra gli dice: ma no, ma questa non è una favola del tuo paese. Lui dice: cacchio, a Casablanca ne ho sempre i Teletubbies, che cazzo vuoi, no? E l'altro esempio che fa è cena multietnica, diciamo, no, pranzo multietnico nella scuola, convincono la refezione scolastica a fare un po' di couscous, un po', insomma, no, la classica cosa che però magari con i bambini può essere, insomma, un modo anche per parlare di certi temi. La maestra si avvicina alla bambina con i genitori originari del Marocco che sta mangiando il couscous. Ti piace il couscous? Siamo a Torino, no? Ti piace il couscous? Sì, buono. È buono come quello della tua mamma? No. Ah, vabbè, lo sapevamo. Sì, certo, la tua mamma lo farà, no? Tradizionale, straordinario. Dice, no, quello della mia mamma è più buono perché lei fa uno strato di couscous, uno strato di tortellini, uno strato di couscous. E anche questo, ecco, la cosa secondo me, e chiudo perché poi così nel frattempo agli altri è venuto in mente qualcos'altro oltre a Molinari, la cosa secondo me... Qualche epiteto. Esatto, qualche epiteto da lanciare a Molinari. La cosa secondo me interessante è che dobbiamo appunto stare sempre attenti e allenarci a riconoscere le traduzioni di certi dispositivi coloniali, no? Perché alcuni di questi, adesso Molinari è un caso abbastanza sfacciato, no? In cui è stata, che è probabilmente un palese tentativo di spostare in là il limite dell'accettabilità di un discorso, no? È un discorso razzista, punto, che viene fatto in prima pagina sulla stampa, no? E quindi da un lato dobbiamo stare attenti a questo, cioè quando qualcuno cerca di spostare i limiti di ciò che è accettabile nel discorso pubblico, quello che magari era accettabile su Libero, poi diventa accettabile sulla prima pagina della stampa. Ora non è che io pensi che la stampa sia molto più a sinistra di Libero, no? Però comunque è un movimento nell'immaginario e uno ci deve stare attento. Dall'altra parte però, l'altra cosa a cui stare attenti è la traduzione. Cioè a volte... diciamo difficilmente tu magari trovi in prima pagina della stampa, proprio per il tipo di giornale che è, lo stesso titolo che trovi su Libero, o magari non troverai mai, no? Al rogo i negri, ovviamente, perché questo ormai è diventato inaccettabile, detto così, ma non è che il concetto è diventato inaccettabile, il concetto viene tradotto e i modi di tradurlo cambiano tutte le volte. Stare attenti a queste traduzioni e imparare a comprendere quando queste traduzioni sono in atto e reagire di fronte a coloro che invece dicono ma no, non è una traduzione, no? Ha detto una cosa tutto sommato appunto accettabile, meno forte. Questo secondo me è uno dei lavori che dobbiamo stare attenti a fare, insomma. I fatti di Colonia sono stati rivelatori da questo punto di vista. Molinari scrive l'editoriale in un momento in cui si sta delirando sui fatti di Colonia, dicendo che c'era un piano preordinato in cui Repubblica fa un titolo virgolettato dei suoi finti virgolettati a attaccare la donna bianca. Molestate la donna bianca. L'ordine su internet, molestate la donna bianca. Un ordine che nessuno ha mai dato, è un virgolettato che nessuno ha mai detto. Repubblica è fantastica perché c'ha questi virgolettati che però non corrispondono al discorso di nessuno. No, è capitato anche a noi, no? Ubing, due punti, virgolettato, robe mai dette, no? Sono i loro riassunti, no? Così. E quindi anche quel titolo di Repubblica sposta il limite dell'accettabilità di un discorso, perché tu su Repubblica hai un titolo da Der Stürmer, ok? Poi è venuto fuori che tutti i discorsi che per giorni e giorni e giorni si sono fatti su Colonia erano cazzate. Perché adesso che è venuto fuori cosa è successo davvero, la maggior parte delle denunce che sono state fatte, centinaia di denunce, riguardano furti, solo una parte riguarda molestie sessuali, che è gravissimo perché comunque lì c'è stato un branco misogino, ovviamente c'è un problema di sessismo che però non riguarda i rifugiati e cose, le tribù del deserto, riguarda i maschi, il problema sono i maschi, i branchi di maschi, non c'entra niente nel deserto, ok? Ecco, poi di tutte decine e decine e decine e decine di denunciati, i rifugiati sono tre. Giustamente Lorenzo Degri scriveva: ah, una tribù del deserto poco numerosa. Al che io gli ho risposto: si chiama deserto perché c'è poca gente, quindi è chiaro, cioè, la tribù del deserto sono in tre, no? E poi tra i denunciati ci sono anche dei tedeschi, cioè, e quindi la tribù della foresta nera, cos'è? Quindi si sono usati i fatti di Colonia per, giustamente, appunto, prima si diceva, il discorso razzista è un motore che non sempre è in funzione, è avviato, ma un motore, anche quando è fermo, è sempre un motore, è un insieme coordinato di parti che quando tu lo avvii poi torna a funzionare. I fatti di Colonia sono stati l'occasione per avviare di nuovo il motore del dispositivo coloniale, appunto, che ha funzionato a pieno regime in quei giorni lì in una maniera mostruosa e ha permesso che dei discorsi venissero fuori dalla fogna e venissero fatti in una maniera molto più esplicita del solito anche sulla Repubblica, la stampa e quant'altro. Ok, quindi bisogna stare molto attenti, anche perché poi quando è venuta fuori la verità sui fatti di Colonia è stata pubblicata nei trafiletti, mentre prima titoloni, TG che urlavano e tutto quanto. Un altro esempio del fatto che il dispositivo coloniale continua a funzionare nell'attualità, nell'oggi, io ne faccio due: la vicenda di Due Marò e il fatto che stiamo per andare in guerra in Libia, i discorsi, i fatti. Allora, il caso di Due Marò, che noi abbiamo seguito abbastanza a fondo, no? Grazie a Matteo Miavaldi, giornalista italiano che sta in India, che ci ha scritto diversi post per JAP, se noi guardiamo come è stato impostato tutto il discorso sui Marò dai media italiani, è assolutamente colonialista, nemmeno post-coloniale, proprio coloniale. Coloniale, perché gli italiani sono vittime, brava gente, sono vittime della barbarie, l'India ha una sfera giuridica più arretrata, sono dei selvaggi, eccetera. Stiamo parlando di una delle più grandi potenze mondiali, tra l'altro, no? Cioè, leader nel biotecnologia e tutto quanto, eccetera. Però nella stampa italiana l'India, a proposito della vicenda di Due Marò, è sempre descritta come appunto le tribù del deserto, siamo a quel livello di retorica lì, e c'è una casella, io dico sempre, nel discorso generale c'è una casella nell'ordine simbolico di tutti noi, che è la casella della vittima. In ogni storia c'è uno che fa una cosa e uno che la subisce, no? Nella casella, nel discorso mainstream italiano, dell'ideologia borghese italiana, chiamiamola col suo nome, nell'ideologia borghese italiana che è basata sul vittimismo, nella casella della vittima ci deve essere per forza un italiano. Non ci può essere qualcun altro, men che meno una vittima degli italiani. Allora sono scomparsi completamente fin dai primi giorni due pescatori uccisi, di cui non sappiamo nemmeno, cioè io li so, però di cui gli italiani non sanno nemmeno come si chiama, non avevano una vita loro, non avevano una sfera di esistenza, non erano dei soggetti, così sono stati accantonati come degli oggetti, spinti a viva forza fuori dalla casella della vittima, che più vittime di loro sono quelli che sono stati crivellati di colpi, e nella casella della vittima sono stati messi Girone e la Torre, che sono ultra vittimizzati anche al di là di quello che gli sta succedendo davvero, perché si continua a dire i due Marò che sono in galera in India, uno è tornato in Italia da un anno e mezzo ed è qui e probabilmente in India non ci tornerà mai più, e l'altro è ancora in India ma non è in galera, nessuno dei due è mai stato in galera, prima erano in un residence, ok, certo con le guardie fuori, ma in un residence, e poi adesso invece quello che è rimasto là è in un appartamento dell'ambasciata italiana, non sono mai stati in prigione, però si continua a dire i due che sono là in prigione, di quando uno in Italia e l'altro non è in prigione, quindi c'è un discorso di vittimizzazione dell'italiano che il Chiani è fotti, no, perché cioè tutto funziona così, la nostra retorica è quella, l'italiano è vittima e quando invade l'Etiopia lo fa per difendersi dall'Etiopia che sta invadendo, è sempre tutto così, ecco. E questo è un esempio di mentalità coloniale che continua a operare, continua a lavorare, no? È inconcepibile che degli italiani, dei militari italiani possono aver sparato a dei civili inermi, non è mai successo, mai, non è mai successo nella storia, no? È senza precedenti questa cosa qua. Infatti poi ogni 10 febbraio, giorno del ricordo, compare questa foto dove si vede un plotone di esecuzione che sta per fucilare 5 poveracci e si dice che quei 5 poveracci sono italiani e il plotone di esecuzione sono malvagi titini. Peccato che quella lì sia una foto di 5 civili sloveni fucilati a Dane in Slovenia il 31 luglio del 42 e quelli lì, il plotone di esecuzione, hanno la divisa del Regio Esercito. Cioè, quindi appunto ogni volta devi spingere fuori a viva forza dalla casella della vittima chi c'è davvero e metterci degli italiani, anche quando è plateale la manomissione, no? Perché non può essere l'italiano il carnefice. Questa è una cosa che ci deriva da allora, è ancora quel dispositivo che opera. L'altro è, in questi giorni la Pinotti, la ministra, continua a dire, usa una frase proprio codificata, è sempre la stessa in tutte le interviste, il nostro legame speciale che abbiamo con la Libia. No, dice, bisogna intervenire in Libia per via del nostro legame speciale. Ho detto più volte, il nostro legame speciale è un gasdotto, il Green Stream, lì è il nostro legame speciale. Però appunto, non dice mai, cioè, la storia che abbiamo in comune con la Libia, non dicono mai quale, un genocidio in Cirenaica, 16 campi di concentramento nella Sirtica, guerra chimica, cioè, le rovine romane a Leptis Magna. Quello è il nostro rapporto speciale con la Libia, è quello lì, e viene rimosso tutto, continuano ad alludere a questo nostro rapporto con la Libia, e però non dicono mai quale, perché non gli conviene dirlo. Nel momento in cui stiamo per andare in guerra in Libia è un po' scomodo ricordare cosa abbiamo fatto nelle guerre precedenti che abbiamo fatto la Libia. Questo è il dispositivo coloniale, pari pari. Semplice, appunto sui fatti di Colonia non si dice mai che all'Oktoberfest succede la stessa cosa, cioè anche peggio. E questa è una cosa che mi ha molto meravigliato, perché questo episodio dei fatti di Colonia ha inquinato le menti anche di persone che conosco, Dacia femministe. Dacia Maraviglia, sì. Ma no, infatti quando personalmente me lo hanno chiesto di scrivere un articolo, ho detto no, perché non avevo capito quello che era successo. A volte no, i no sono importanti da dire. E quindi noi abbiamo parte delle femministe italiane che ancora appunto pensano che gli arabi sono selvaggi e stupratori. Poi non so se vi ricordate una delle vignette di Charlie Hebdo, no? Dopo i fatti di Colonia, del piccolo Aylan che sapete che è morto nell'Egeo. Allora la domanda era cosa sarebbe diventato da grande il piccolo Aylan? Allora è chiaro, il piccolo Aylan sarebbe diventato uno stupratore seriale di donne bianche. No, era. E quella vignetta, secondo me, è un dispositivo coloniale terrificante, perché poi c'è stata la risposta della Rania di Giordania e di un vignettista giordano che hanno chiaramente risposto a Charlie Hebdo dicendo: guardate, probabilmente avrebbe avuto la possibilità di diventare un dottore o un insegnante, di farsi un'altra vita, no? Perché è proprio stupratore. Quindi quello che è successo a Colonia è molto grave, perché si è di fatto creato una guerra tra donne e migranti, no? Ed è usare il corpo delle donne, come al solito in tutte le guerre si usa, per creare dei problemi ai migranti, perché adesso lo vediamo, no? Tutti stanno chiudendo i muri e c'è questo gioco del local massacro, no? Dove appunto sei sballottato come una pallina di ping pong da un muro all'altro, e tutte persone che non avranno diritti civili, dunque è veramente terrificante. E per la seconda cosa che vi volevo dire, Io studio più che altro le rappresentazioni pop, molto spesso cose che vengono considerate un po' futili, no? Le attrici, le cantanti, perché in realtà sono per me sono una chiave di interpretazione della realtà in cui viviamo, perché appunto in Italia, se ci fate caso, il mainstream televisivo, ma anche cinematografico, a parte alcune eccezioni appunto come Fuoco a Mare, alcuni bellissimi documentari, Io sto con la sposa e tanti altri che abbiamo grazie a Dio visto, però in realtà il panorama che ci viene presentato è un panorama bianco, cattolico e borghese, no? Dove l'altro, se è presente, è un altro quasi sempre inferiorizzato, sei un criminale, uno stupratore, se sei donna sei una prostituta. Io ho molte amiche che fanno le attrici, come me, afro-italiane, una su tutte a cui ho pure dedicato il libro, cioè l'ho ringraziata molto, Esther Liscia, che adesso è riuscita a fare delle fiction diverse, ha avuto dei ruoli diversi, ma per anni e anni le proponevano soltanto il ruolo da prostituta o da badante, perché questa era la chiave interpretativa dell'altro, cioè l'altro è sempre l'inferiore, quello che noi dobbiamo appunto civilizzare. Quindi io appunto prima parlavamo delle fiction, secondo me è molto importante proprio guardare quello che ci viene proposto anche dalla cultura pop, perché poi quella cultura pop ha delle conseguenze incredibili, sono quelle che guardano non soltanto gli anziani, ma l'Italia è ancora un paese legato molto alla TV, alla TV proprio generalista, quindi comunque veicolano dei messaggi, e io ho cominciato a studiarla perché comunque lì succedono delle cose abbastanza raccapriccianti. E l'ultima cosa è anche, secondo me, il ruolo degli intellettuali italiani in questo modo, in questo momento, un ruolo di chi fa il nostro mestiere, di scrittori, ma anche di giornalisti, perché c'è un po', almeno non so se poi è la mia sensazione o una sensazione reale o no, però c'è una sorta di scimmiottiamola fallaci, no? È molto bello essere islamofobi. Io sto vedendo tantissimi articoli, ma anche non di politica, anche delle recensioni. Adesso c'è questa presentazione di questo libro 2046, perché appunto parla di arabi cattivi, arabi fondamentalisti, ecco, e io leggendo in alcuni giornali del tipo Il, del Sole 24 Ore, che secondo me è uno dei giornali più islamofobi, diretto da Cristian Rocca, esatto, uno dei giornali più riviste, più islamofobi mai viste, più razziste mai viste in Italia, altro che Libero, cioè, perché comunque è più pericoloso, perché si ammanta di cultura. Non vendo un cazzo. Sì, si ammanta meno male. Sì. E il problema è questo, però. Noi abbiamo... È super patinato. Sì, super patinato. Quindi queste sono operazioni che adesso stanno prendendo sempre più piede, e comunque frequentando comunque anche altri scrittori, vedo che i discorsi anche, no, contro soprattutto Islam, richiedenti asilo, stanno aumentando vertiginosamente, e quindi questa cosa mi preoccupa su quello che poi l'intelligenza italiana potrà produrre, perché non tutti sono i booming, purtroppo.